guerra pesantissima, ma perché ci premeva mettere in luce due aspetti che abbiamo cercato di sottolineare dall'inizio di questa faccenda. Primo, che questa guerra non è una delle tante guerre che ci sono state, che sono geograficamente delimitate, che sono fini a se stesse. Questa guerra è la prima grossa espressione del nuovo disordine mondiale che si va manifestando ed espandendo. Dopo l'Afghanistan è entrato definitivamente in crisi quell'equilibrio del capitalismo internazionale fondato sul ruolo predominante degli Stati Uniti. La crisi generale del capitalismo ha prodotto questo. E il primo grosso segnale politico è la guerra in Ucraina. Questa guerra in Ucraina è una guerra allargata, è una guerra tra capitalismi, tra il blocco imperialista russo, scusate, tra il blocco imperialista della NATO, e è una guerra che è in divenire, che apre il percorso e la tendenza verso la guerra generale del capitalismo, quale epilogo di questa crisi generale. Noi oggi sicuramente non sappiamo dire quanto manca, quando ci sarà, con che fronti, ma possiamo assistere ai passaggi, ai percorsi, ne parleremo più durante la discussione, ma quello che sta avvenendo in questi giorni, l'Africa, i colpi di Stato antifrancesi in tutta l'area del Sahel, andando all'indietro, la costituzione dei BRICS, l'India che non invita l'Ucraina al G20 come ospite a differenza degli altri paesi, e così via, tanti piccoli segnali di questa volontà di non accettare più il predominio americano, di metterlo in discussione. Dietro l'angolo abbiamo la possibilità di guerra con la Cina, data dalla questione di Taiwan, che è insita e esplicitata all'interno del programma elettorale del Partito Democratico fin da prima dell'elezione di Biden negli Stati Uniti. Tanti segnali che vanno in questo senso. Noi oggi possiamo registrare il percorso, le accelerazioni, se vogliamo anche le controtendenze a questa dinamica, ma la cosa centrale, secondo noi, è avere chiaro che questo percorso si è aperto. Il capitalismo sul terreno guerra, se vogliamo, ambiente, sopravvivenza della specie, sta ponendo un out-out alla razza umana che solo il proletariato può risolvere e può affrontare. Questo è il primo grosso punto. Secondo punto che noi preme sollevare, poi darò la parola a Sandro, è che all'interno di questa dinamica, specie nei paesi occidentali, noi stiamo vivendo assuefatti alla logica della guerra. Siamo distanti dalla guerra. Abbiamo detto la guerra non è in vacanza. Noi ci siamo andati tutti, chi più chi meno, nella nostra società si prosegue quasi come se niente fosse. La guerra è un fatto televisivo da telegiornale mentre si mangia. Non è fatto di quella materialità di morte, di sangue, di puzza, di gente che è distrutta come avviene in Ucraina che è lì vicino. E siamo in una situazione in cui addirittura non solo la gente in termini di masse, quello che possiamo parlare, di quelli che oggi non ci seguono sono qui, gliene interessa poco e forse sono contrari, forse, per quieto vivere, ma anche all'interno di chi si dice contro la guerra, la situazione non è più delle piacevoli. Lascio da parte subito quelli che appoggiano i russi per qualche strano e osceno motivo che non ho voglia di affrontare. Abbiamo purtroppo una crescita di quelli che appoggiano la guerra di fatto, si dicono pacifisti, ma sostengono l'invio delle armi. La maggior parte della sinistra, cosiddetta sinistra istituzionale, sindacale a livello globale, sostiene la guerra mentre dice che vuole la pace. Questo argomento in qualche modo si allarga fino a settori anarchici e socialisti, specie nell'area slava, ma non solo, che partecipano alla guerra. C'è l'arruolamento non in proprie reparti, ma all'interno delle forze armate ucraine, di settori russi, bielorussi e ucraini che vanno a combattere e ci raccontano che c'è un problema di autodeterminazione dell'Ucraina contro l'imperialismo russo. A Varsavia in questi giorni c'è una manifestazione indetta dagli anarchici che, di questo settore, che ricorda l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che secondo loro sarebbe stata fatta dall'imperialismo nazista e dall'imperialismo russo, punto. Stiamo arrivando a questo genere di impostazioni che noi pensiamo siano sciovinismo. Se le andiamo ad analizzare, quando ci si parla della barbarie del nemico, del suo essere l'obiettivo principale, eccetera, ricordano quello che diceva la socialdemocrazia tedesco-italiana all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Non è un problema di lana caprina, di teoria, è che tutte queste forze rappresentano la dinamica di controrivoluzione preventiva che è la guerra e vogliono inquadrare il proletariato sui fronti di guerra. Ci stanno preparando a combattere. Il multipolarismo di cui tanto si parla oggi è una delle forme con cui ci vogliono far schierare con questo o quel contendente del conflitto intercapitalista a livello globale. E chiudo dicendo che la cosa che ancora di più ci dispiace, tra virgolette, però è un dato con cui dobbiamo fare i conti, a cui noi non è che potremo dare come centro una risposta politica, possiamo dare delle indicazioni di quello che noi riteniamo e mettere del materiale a disposizione. Anche in chi si dice contro la guerra c'è una difficoltà a riconoscere l'aspetto centrale del conflitto ucraino e muoversi a partire da questo. No, si mettono in campo tutta una serie di iniziative, ma alla fine ce lo metti che c'è la guerra in Ucraina, magari direi che l'Italia deve uscire dalla NATO mentre è in guerra con la NATO, ma non diventa l'aspetto centrale della nostra propaganda, della nostra azione politica. Io lo chiudo dicendo che ci sono una serie di iniziative a cui noi preme che nel prossimo immediato chi si può muovere, chi ha forza, chi ha organizzazione, e noi lo diremo con i nostri piccoli mezzi, ponga questa cosa al centro, perché il discorso del disfattismo, la contrapposizione a tutti i fronti, non è un fatto acquisito anche all'interno di questo settore. Si profilano una serie di scadenze che sono importanti per vario verso. Parliamo, oggi ce n'è stata una, di quelle di Fridays for Future qui alla Darsena, e il 6 ottobre faranno uno sciopero nazionale. La guerra è in coda, c'è anche questo, e sarebbe invece il caso di far vedere il legame che c'è tra la distruzione ambientale, il capitalismo e la sua guerra. E abbiamo una serie di altre iniziative a cui noi invitiamo a partecipare, ma che noi chiediamo che, specie da chi c'è attore dentro, si ponga come centrale questo disegno, questa valutazione della guerra in Ucraina. E sono l'assemblea per lo sciopero generale dei sindacati di base dell'8 ottobre qui a Milano. Partecipiamo, iniziamo a dire che è centrale schierarsi su questo terreno in termini disfattisti, non semplicemente dire che c'è la guerra e che bisogna essere contro, no, agli armamenti, eccetera. Tutti dobbiamo schierarci in questo senso. Il 20 ottobre ci sarà lo sciopero generale dei sindacati di base, lo stesso deve divenire un motivo generale. Il 21 ottobre ci saranno le mobilitazioni nazionali a Ghedi, a Pisa, in Sicilia contro le basi. E sarà anche lì da porre, certo, la chiusura di queste basi, ma soprattutto fine immediata della guerra in Ucraina. Siamo contro la prosecuzione di questa guerra, il proletariato ucraino, russo, bielorusso ha tutto da guadagnare dalla conclusione, come qua. Il 4 novembre ci sarà non solo la commemorazione della Grande Guerra, ma diventa la giornata delle forze armate. Il sindacato degli studenti OSA ha indetto una giornata di mobilitazione contro la militarizzazione delle scuole. Deve essere anche lì, secondo noi, posto al centro, sostenuta la necessità della disfattismo della fine della guerra in Ucraina. Il 18 novembre ci sarà a Torino la manifestazione contro la città delle armi. Giustamente c'è il commercio delle armi e l'Italia sta portando un mucchio di armi in Ucraina. Anche lì deve, secondo noi, divenire centrale questo tipo di posizione, di rivendicazione. Il disfattismo non è una cosa che si farà solo il fatidico giorno X della rivoluzione, come è avvenuto durante la guerra del 17 in Russia. La tradizione storica del proletariato in questo settantennio è quella di partecipare alla guerra, è questo che va ribaltato fin da oggi, facendo vedere che guerra c'è e come ci si schiera. E dicendo, se no facciamo la fine, dal 22, il coordinamento per la pace di Milano è una serie di altre realtà, quindi dal 22 al 24, fanno con Monia Vadia, con Maglio Di Nucci, una serie di iniziative contro la guerra in Ucraina. Vi invito ad andare a vedere e leggervi il manifesto di convocazione. Non c'è una riga che sia una sulla responsabilità politica del regime reazionario russo. La colpa è tutta della NATO. La NATO fa questo, la NATO è una banda di delinquenti, cioè non ci piove, no? Non c'è bisogno di entrare su questo. La Russia in questo momento non solo sta facendo una guerra, sta arrestando tutti gli oppositori alla guerra, bisogna dirle queste cose. Bisogna entrare nel merito dello scontro, che non c'è da appoggiare la Russia contro la NATO, la NATO contro la Russia. Centrale che noi vogliamo vedere, la pochezza di quanto facciamo sta in Russia, Bielorussia e Ucraina, ci esistono forze che si pongono contro la guerra. Ancora oggi non è concesso l'asilo politico a chi da questi paesi scappa per non andare in guerra. Non solo, il governo ucraino sta iniziando a richiedere ai paesi europei di ricondurre in Ucraina tutti quelli in età militare 18-60 che sono qua in Europa e che sono scappati dalla guerra. Noi siamo dalla parte contraria a tutto questo. E do la parola a Sandro, è stato troppo lungo. Grazie Francesco, grazie a chi è presente questa sera. Non è la prima volta che vengo qui a parlare della guerra, d'altra parte ho scritto su Carmilla il primo articolo contro questa guerra il 25 febbraio 2022, cioè esattamente dopo, il giorno dopo l'inizio della guerra. Lo dico non per dire, ma perché già per me questa guerra era largamente prevedibile, cioè il finale in una guerra imperialista della crisi non solo del capitalismo ma anche del predominio statunitense sul mondo. L'avevo segnalato in un libro uscito nel 2019 che abbiamo presentato qui, che si intitolava, guarda caso, Purtroppo la guerra che viene, e che raccoglieva già i miei articoli precedenti sull'argomento. E perché tutto questo? Perché ritengo che la questione sia una delle questione guerra sia una delle poche questioni veramente dirimenti per un movimento sociale antagonista. Cioè, o si è per la guerra o si è contro la guerra. Non ci sono tutte queste cose che ci elencava poco fa Francesco, sì, siamo contro la guerra, però preferiamo questi o quegli altri. No, siamo di fronte a una guerra in cui si manifestano tutte le contraddizioni dell'imperialismo e in cui si manifesta la contraddizione di un imperialismo che non ha più pochi, protagonisti. Quando sentiamo parlare di multipolarismo, noi sentiamo parlare degli interessi di svariati imperialismi che sono interessati ormai a entrare nel gioco, nella spartizione della ricchezza e delle risorse mondiali, soprattutto in un momento in cui queste risorse cominciano a scarseggiare. Quindi questo è un dato di fatto oggettivo. Fin dall'inizio ho detto, sono perfettamente d'accordo con Francesco, questa non è una guerra tra le altre, è una guerra che ha manifestato subito tutta la sua potenzialità distruttiva, ma di potenzialità di guerra classica. Cosa intendo dire questo? Per anni l'Occidente, se qualcuno me l'ha sentito dire me lo sentirà ripetere, si è illuso di fare delle operazioni di polizia, no? Qualche corpo speciale inviato in determinati paesi a fare controguerriglia, combattere, eccetera, ma mai schierare i grandi eserciti che avevano caratterizzato la prima, la seconda guerra mondiale, la guerra di Corea, o parzialmente anche la guerra in Vietnam, no? Oppure le guerre successe nel Medio Oriente negli anni 70, la guerra del Kippur piuttosto che quella del Sinai. operazioni in cui gli Stati Uniti potevano, con l'uso di apparato tecnologico, aviazione e soprattutto non avendo di fronte degli eserciti molto organizzati o attrezzati, usare truppe speciali e azioni mirate per colpire. Si sono sempre trovati in difficoltà gli Stati Uniti con la guerriglia e la sconfitta politico-militare dell'Afghanistan lo dimostra. Però abbiamo colto subito, come in questa guerra, per esempio è stato Putin a chiamare questa guerra operazione militare speciale, non l'ha chiamata operazione di polizia, ma insomma più o meno sembrava la stessa cosa. In realtà i numeri attuali, cioè dopo un anno e mezzo, 19 mesi di guerra, conteggiare circa 500.000 vittime tra morti, feriti, mutilati, eccetera, sul campo di battaglia significa tornare a cifre da guerre mondiali. E questo significa anche che le forze in campo devono essere molto numerose. Se ci fosse, scusate se procederò un po' per punti, ma voglio evitare di fornire lo schemino per cui tutto si riaggancia, tutto funziona, tutto va bene, poi alla fine abbiamo ragione noi. Voglio fornire dei punti di discussione perché, appoggiandomi a quello che diceva Francesco, il movimento contro la guerra attuale è molto importante, ma bisogna rendersi conto è un movimento per adesso di opinione, non è ancora un movimento di massa contro la guerra. I numeri sono quelli del movimento d'opinione e purtroppo all'interno dei movimenti d'opinione, lo sappiamo, ci sono le varie opinioni che elencava prima Francesco. Ecco, se facciamo adesso una battaglia, se io sono qui a parlare con voi per questa sera, a dire cerchiamo almeno di far viaggiare delle opinioni razionali, utili, concrete contro la guerra, non che in qualche modo poi la giustificano e l'alimentano. Allora, dicevo, 500.000 vittime militari. La cosa straordinaria, non scambiatemi per una iena, che i civili siano meno di 10.000 i civili morti. Guardate che dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti il numero di vittime civili ha sempre, anche nelle guerre locali come in Iraq, ha sempre largamente sopravanzato il numero dei caduti combattenti o delle vittime combattenti. Evidentemente questa guerra si sta combattendo in territori che sono stati abbandonati dalla popolazione, sappiamo che sono milioni gli ucraini che sono fuggiti, sono territori che erano già stati abbandonati precedentemente a tutto quello che era avvenuto fino al 2014, anche dopo, in quelle zone di Ucraina, e al fatto che probabilmente veri bombardamenti di massa, come possiamo aver visto nella Seconda Guerra Mondiale o nei confronti di altri paesi, torno ancora all'Iraq bombardato dagli Stati Uniti, non li abbiamo visti. Sono buoni russi? No, non sono buoni russi. Evidentemente, in un primo momento, questo è uno anche dei punti interrogativi che io pongo a me stesso prima ancora che voi, perché il 24 febbraio 2022 i russi abbiano aggredito l'Ucraina in quel modo e in tutto sommato inizialmente catastrofico per loro, è ancora tutto da capire. Poi qualcuno può dirmi no, ma gli Stati Uniti volevano fare questo e quell'altro, ma sinceramente spiegare quello dispiegamento di forze e soprattutto essere entrati in Ucraina con un esercito antiquato. Perché i giochi sono cambiati da un po' di tempo a questa parte, ma quando noi vedevamo le immagini dei primi giorni di guerra, la Russia era entrata in Ucraina con camion vecchi, carri armati vecchi, tanto è vero che anche gli esperti militari occidentali, il generale Mini e altri, dicevano ma cosa fanno i russi, perché vanno con quella roba lì? Che pensassero a un colpo di Stato interno, quelle cose di cui si è parlato, io questo non lo so dire, non faccio parte dell'intelligence, non abbiamo documenti, sappiamo che, se vi ricordate, all'epoca delle prime trattative, le subitanee trattative che si tennero tra ucraini e russi, già al secondo giorno gli ucraini avevano comunicato di aver eliminato uno dei membri del gruppo che era andato a trattare perché era un traditore. Quindi evidentemente ci sono state delle tensioni interne all'Ucraina, alla politica ucraina, di cui noi, mentre tutto sommato sappiamo di più di cosa succede in Russia, anche se già non si sa molto della Russia, però sappiamo un po' dell'opposizione che viene repressa, eccetera, dell'Ucraina spesso non si parla. Eppure quello che ci ha appena detto Francesco prima, questa cosa che tutto sommato sia stato chiesto ai paesi occidentali di rispedire in Ucraina gli uomini in età militare, ci dice che evidentemente un bel po' di diserzioni ci sono state. Ci è stato detto che 1.300.000 russi erano scappati dalla Russia per non andare a combattere. Quanti siano gli ucraini, che in mezzo a quei milioni di ucraini si calcola che dai 6 agli 8 milioni di ucraini abbiano lasciato l'Ucraina dopo l'inizio della guerra, quanti siano quelli che hanno lasciata proprio per non combattere. Addirittura un giornalista sempre piuttosto propenso ad appoggiare le guerre occidentali, cioè Adriano Sofri, in un articolo sul Foglio di qualche mese fa sottolineava che insomma quei video che si erano visti su i vari social di arruolatori ucraini che andavano in giro per le strade di Kiev ad arruolare a forza i ragazzi e che li picchiavano e la gente interveniva per impedire l'arruolamento, insomma, non facevano far bella figura, forse era meglio toglierli quei video, no? Dai canali social, che non si vedessero queste cose. Quindi se ce lo dice Sofri, che è uno che ha appoggiato tutte le guerre nell'Occidente, dall'Afghanistan, dalla prima guerra afghana in avanti, con la scusa dell'intervento a favore delle donne, evidentemente c'è sentore di una resistenza interna. E questo, dal nostro punto di vista, perlomeno dal mio, è un buon segno, vuol dire non tutti cadono facilmente nella guerra, forse anche soltanto per paura. Perché molto spesso mi viene a dire, no, ma tu dici che la gente non vuole la guerra per paura, allora non è politica. No, il primo movente che deve muovere un giovane a non voler andare in guerra è la paura di morire, di sprecare la sua vita per una causa inutile, di farsi massacrare. È chiaro che questa cosa qui. Come ho ricordato tante volte, i soldati russi che abbandonarono il fronte tra il 1916 e il 1917, ancora prima che si scattasse lo sciopero di Pietrogrado, 1.600.000 soldati lasciano le frontiere. Non volevano più combattere, non volevano più morire di fame, volevano tornare a casa e occuparsi della campagna. Non lo facevano con l'intento di rovesciare lo zarismo all'epoca. Quindi teniamo sempre conto di queste cose, che da un lato si passa da un'accettazione della guerra alla pretesa che chi si oppone alla guerra immediatamente sia un antimilitarista formato, convinto, eccetera. No, ci sono tutte queste cose, sono le contraddizioni della guerra, sono le contraddizioni degli stati, l'abilità di chi si oppone all'attuale sistema e modo di produzione è proprio quello di sfruttare le contraddizioni. Allora, se ci sono queste contraddizioni, se c'è questa cosa di una guerra che ha già prodotto molti morti e molte sofferenze e molti giovani sono stati distrutti, vediamo anche che è una guerra che ci stanno dicendo, che per qualche settimana ci hanno detto no, adesso finisci in fretta perché la controffensiva ucraina va bene. Poi hanno cominciato a dirci, soprattutto gli americani, guarda caso, New York Times, Washington Post, eccetera, che la controffensiva non andava così bene. E addirittura a un certo punto è successo che ci sia stata una forte critica nei confronti della conduzione della guerra ucraina. Devo dire che dal punto di vista militare non mi sorprende che oggi siano gli ucraini ad avere più vittime, più morti che non i russi. Storicamente in guerra chi attacca ha più morti. Prima ad attaccare erano i russi, adesso i russi hanno avuto modo di fortificare le loro linee, minare il territorio, bombardare. Sono gli ucraini che adesso devono attaccare, sono loro. Tanto è vero che tutto sommato questa primavera il New York Times dava circa 250.000, meno di 300.000 i caduti sul fronte ucraino, adesso a settembre parliamo di 500.000, quindi questi 200.000 morti in più, cioè hanno quasi raddoppiato le cifre primaverili, vuol dire che in questa controffensiva c'è un bel massacro di soldati russi, ma soprattutto ucraini probabilmente. E questa cosa qui è un po' infastidito i comandi NATO, tanto è vero che il capo delle forze armate ucraine, Zuladzny, che fino a qualche mese fa era considerato il nuovo genio militare perché era riuscito ad applicare le tattiche della resistenza finlandese nella guerra tra il 1939 e il 1940 tra Russia e Finlandia contro l'esercito russo, è stato pesantemente criticato, ma è evidente che nel momento in cui erano i russi ad attaccare le tattiche di resistenza, soprattutto utilizzando i mezzi che l'intelligence occidentale forniva all'Ucraina e anche gli specialisti stranieri che combattono nell'esercito ucraino, questo sistema funzionava. Quando si è trattato di attaccare con la fanteria, con l'artiglieria, con i carri armati e tutto il resto, queste cose qui non funzionano bene, non funzionano più. Occorre avere un coordinamento militare di comando di azione diverso. Tanto è vero che appunto Zulazny è stato convocato in Polonia, credo i primi di settembre, metà agosto, non ricordo esattamente la data, e ha dovuto cominciare a cambiare tattica. Vedete che adesso sentiamo parlare di più di attacco verso sud, verso la Crimea, per concentrare le truppe, ma è come se la NATO e gli Stati Uniti avessero preso un po' il comando effettivo dell'azione militare ucraina. Questo cosa vuol dire? Questi vogliono proprio fare la guerra? No. È evidente, io ci pensavo in questi giorni, no? Ho detto per molto tempo che questa è una guerra non come le altre, perché come vi ho detto all'inizio non era più un'operazione di polizia, richiede centinaia di migliaia se non milioni di soldati, e tutto sommato nelle due guerre mondiali precedenti gli Stati Uniti hanno cercato a lungo di far combattere molto di più gli altri. Nella prima guerra mondiale gli Stati Uniti intervengono nel 17 e nella seconda guerra mondiale intervengono ufficialmente nel 42. Aspettano Pearl Harbor e poi ricordatevi sempre che la prima azione militare statunitense è lo sbarco in Marocco per cominciare poi ad attaccare l'Europa. Però vanno avanti altri eserciti. Ecco, in questo caso l'esercito ucraino ha funzionato benissimo. Probabilmente quello che Putin, a mio avviso, non ha calcolato, che sì, è vero che gli Stati Uniti in Afghanistan avevano preso una batosta, ma in Ucraina avevano un differente esercito da far combattere e potevano far schierare altre armi direttamente, un'altra intelligence. Questa è l'unica spiegazione tecnica, non è politica, che posso darmi di questa cosa. Non me ne posso dare altre. E questa è la prima cosa. Però, come ha detto Francesco prima, io ne sono fermamente convinto, la guerra in Ucraina non è importante per quello che succede o non succede in Ucraina. È che la guerra in Ucraina ha aperto una voragine che si poteva già intravedere prima, ma che in quest'anno e mezzo si è aperta. Chiunque pensi che questa guerra sia stata voluta, diretta, eccetera, soltanto dagli Stati Uniti, dovrebbe tener conto di tutto quello che è successo. Per esempio, fatto di poche settimane fa, il rafforzamento dei BRICS. Ai BRICS originali si sono aggiunti altri paesi, l'Arabia Saudita, l'Iran, l'Egitto, l'Etiopia, l'Argentina, paesi che se messi tutti insieme con la Russia, eccetera, detengono quasi il 40% delle risorse energetiche a livello mondiale. Paesi che sono interessati a non subire più il dominio del dollaro. Questo non vuol dire che immediatamente faranno la guerra per questo, ma sicuramente nel momento stesso in cui l'Arabia Saudita comincia ad accettare, come nei mesi scorsi, il pagamento del suo petrolio in moneta cinese, è chiaro che questo significa un indebolimento della potenza del dollaro. La potenza del dollaro è sempre stata quella di essere l'equivalente universale per lo scambio dei prodotti energetici. No? Lo sappiamo benissimo. Il petrolio tutto è calcolato in dollari. Adesso no. L'altra seconda cosa che può essere preoccupante per gli Stati Uniti è per esempio che la Cina è riuscita a mediare tra Arabia Saudita e Iran, due antagonisti assoluti nell'area del Golfo, due antagonisti che fino a qualche mese fa si facevano la guerra spietata in Yemen. E in nome invece di questo antagonismo, chiamiamolo così, ma non è un antagonismo anticoloniale, vorrei dire subito questo, il grave errore che si può fare adesso, oggi, è di scambiare questo multipolarismo, questa richiesta di partecipare in più, in più entità statali al banchetto imperialista del mondo, chiamiamolo così, non è una cosa anticolonialista, è qualcosa che va comunque contro gli interessi sia dei proletariati di quei paesi interessati che del proletariato occidentale, che del nostro proletariato, del proletariato mondiale in genere. Quella cosa lì non significa il miglioramento per nessuno. Pensiamo soltanto cosa ha significato qui in Europa tutta la scelta antagonistica degli stati. Facciamo le sanzioni alla Russia sotto la guida americana, ma per adesso gli stati che hanno patito di più le sanzioni alla Russia non è stata la Russia, ma sono stati proprio gli stati europei. L'attuale crisi tedesca ci dice questo. L'aumento dei costi delle materie prime, e quindi adesso si parla tanto di lotta all'inflazione, aumentano i tassi, ma l'inflazione è partita al galoppo esattamente dopo le sanzioni e l'aumento del costo delle materie, dei prodotti energetici, dell'energia elettrica, petrolio, gas e tutte queste cose. Tanto è vero che l'Europa importa sempre meno gas dalla Russia, però compra gas liquido dalla Russia. E i paesi che principalmente stanno comprando gas liquido dalla Russia sono la Spagna, la Francia, l'Italia e la Germania. E gli esperti italiani del settore petrolifero ci dicono: calma un attimo, noi del gas russo non possiamo per adesso, per tutto il 2024, poi vedremo per il 2025, non possiamo farne a meno. Quindi dietro a tutte queste sceneggiate che noi assistiamo, soprattutto grazie a una stampa infingarda, a una stampa embedded, no, ai media venduti, in realtà si manifestano contraddizioni enormi che fanno parte di quel disordine mondiale. Ci sono i BRICS in competizione con l'ordine occidentale del mondo, prima cosa. I paesi occidentali che stanno andando in contraddizione tra di loro. La Germania, non a caso, ha fatto uscire su Der Spiegel quelle cose che si sapevano già da tempo, perlomeno erano già state denunciate in America da alcuni giornalisti, che tutto sommato Nord Stream l'hanno fatto gli ucraini. Ecco, adesso noi non possiamo che pensare che l'imprenditoria tedesca, che era già contraria sia alla guerra che alle sanzioni, e poi vedremo altri motivi in più perché sia adesso più d'accordo a partecipare alla guerra in Ucraina dopo aver saputo che il petrolio e Nord Stream sono stati fatti saltare di brutto con un'azione militare dell'Ucraina o di agenti speciali di altre potenze occidentali e non russe. È una cosa che si ribalta anche sul piano politico. Scusate se vado un po' avanti e indietro, ma quando noi scopriamo due giorni fa che Francia e Germania dicono chiudiamo l'ingresso agli immigrati che arrivano in Italia, non è che improvvisamente sono diventati cattivi, ma Macron e Scholz stanno già guardando le elezioni europee. E se non prendono provvedimenti di questo genere, è sicuro che in Francia e in Germania sarà da un lato la destra di Le Pen e dall'altra l'estrema destra tedesca, che già sta salendo nei sondaggi a prendere il sopravvento. E quei partiti lì, in particolare la destra tedesca, non è d'accordo a proseguire la guerra in Ucraina, le sanzioni, tutto ciò che danneggia il sistema economico tedesco. Quando l'altro giorno ci hanno parlato del fatto che con la via del cotone Biden fregava i cinesi sulla via della seta, ci sono dimenticati di dirci due o tre cose importanti, che la via della seta esiste già. E nonostante la guerra ha continuato a funzionare, certo, in termini ridotti, ma le linee ferroviarie che univano direttamente la Cina con l'Europa e con la Germania, che mettevano in relazione tra di loro 23 paesi, metteteci pure che dentro quei paesi c'è la Russia, ci sono quelli legati alla Russia, no? Hanno continuato a funzionare. Dall'inizio della guerra, da quel quasi milione di tonnellate di merci che viaggiavano nei due sensi, si è ridotto. Le linee che attraversano l'Ucraina non funzionano più, però le linee che attraversano l'Ucraina nel senso della via della seta riguardavano il 3% degli scambi. Gli altri arrivano comunque attraverso la Bielorussia, in Polonia e poi negli altri paesi dell'Europa, eccetera. Non solo. La Cina non sarebbe nemmeno d'accordo a dire quello che io sto dicendo, che tutto sommato i traffici sono ridotti, nel senso est-ovest si sono ridotti della metà dopo l'inizio della guerra e in senso ovest-est del 35%. La Cina però dice no, guardate che però i nostri traffici est-ovest sono aumentati perché sono aumentati i traffici nei confronti della Russia. Ma dico questo per dire la via della seta, di cui avevo già parlato in passato, che era una cosa molto nuova dal punto di vista del commercio mondiale, perché liberava per la prima volta quello che è definito l'Heartland, il cuore dell'Eurasia, direttamente in contatto con l'Europa, non aveva bisogno del controllo marittimo che, con cui le grandi potenze hanno sempre, soprattutto gli Stati Uniti, cercato di controllare con un anello militare di alleanze, di flotte, eccetera, il continente eurasiatico. In realtà Biden ha proposto questo l'altro giorno in India. La via del cotone cosa prevede? Che delle navi carichino le merci in India, attraversino l'Oceano Indiano, vadano in Arabia Saudita queste merci siano caricate sui treni, attraversino tutto l'Arabia e i paesi del Medio Oriente fino ai porti israeliani, dai porti israeliani sarebbero di nuovo imbarcate sulle navi, portate al Pireo, dimenticando due cose, che il Pireo è completamente gestito da una compagnia cinese e che poi dalla Grecia muoversi in ferrovia verso nord è praticamente impossibile, se non facendo delle opere ferroviarie faraoniche che attraversano i Balcani o il nord della Grecia in direzione della Macedonia, eccetera, cose che per adesso non ci sono. È vero che Biden sta cercando di proporre una sorta di Rimland, cioè di circondare l'Heartland, il cuore, di nuovo con un anello marino. Ma è un progetto tra i tanti. Si diceva stasera così, scherzando, beh, qualche analista si è venduto bene il progetto a Biden, no? Perché in realtà quella linea sopravvive. La stessa preoccupazione che c'è per la diffusione dell'auto elettrica tedesca in Europa, al di là di ciò che viene prodotto in Europa, è perché la Germania comunque continua a scambiare componenti con la Cina attraverso la via della seta. È chiaro che l'atto di guerra definitivo, non nei confronti della Cina o della Russia, ma della Germania, sarebbe quello di troncare quella via. E quello sarebbe non sopportabile dell'economia tedesca. Dico questo solo per aggiungere un anello a quel disordine mondiale di cui andiamo parlando. Cioè il disordine mondiale delle nuove potenze emergenti, tra cui non dimentichiamocene una fondamentale, che dall'inizio della guerra gioca una partita sempre più spericolata, ma che è la Turchia. Quindi a fianco degli attori classici che noi abbiamo visto nel nostro immaginario, gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, il Giappone o la Germania, oggi abbiamo altri attori piuttosto spericolati: Erdogan, l'Arabia Saudita, l'India che è una potenza emergente, la Cina che è sicuramente una grande potenza economica, un paese come il Brasile che lo sta diventando e che, non so se avete notato, poiché presiederà il Brasile il prossimo summit del G20, Lula ha detto in Brasile verrà Putin, perché in Brasile non lo arrestiamo. Se non è una sfida questa all'Occidente, ditemi cos'è. Ma ripeto, stiamo attenti a non confondere la sfida imperialistica con quella anticoloniale. Non sono più la stessa cosa. Ci sono borghesie nazionali e capitali non più occidentali che non vogliono più sottostare al gioco del dollaro di altri. E quindi questa guerra ha aperto questa nuova contraddizione. Quello che poi è successo in Africa negli ultimi mesi è altrettanto interessante. Abbiamo avuto una sfilza di colpi di Stato e di rovesciamenti che hanno fatto sì, a partire dal Sudan, dove nessuno se n'è accorto, ma nella primavera di quest'anno gli occidentali se ne sono andati via dal Sudan e sono andati via di corsa come dall'Afghanistan. E immediatamente dopo il Niger, attualmente il Gabon, ma in tutta la fascia cosiddetta del Sahel, i paesi che in qualche modo si sono liberati della presenza francese, la Francafrique è andata a farsi friggere, sono tanti, il Mali, il Chad, che hanno mandato via la presenza militare francese. È chiaro che in tutto questo la popolazione locale, l'abbiamo visto, ha manifestato contro i francesi. Dobbiamo calcolare una cosa: questa popolazione di altri paesi meno ricchi dei nostri sinceramente ci odia. Odia la Francia e odia l'Occidente. Odia l'uomo bianco. E fa bene. Cioè, voglio dire, cioè, comunque è un fatto, è un dato di fatto. Non illudiamoci di essere rimasti gli unici razzisti. Possono diventarlo loro, benissimo, nei nostri confronti. L'interesse economico, l'interesse a sopravvivere, l'interesse a dire basta con questa cosa che mi limita, si travestirà in tutti i modi possibili. Sarebbe interessante vedere che alcuni di questi generali che hanno fatto i colpi di Stato, io non mi stupisco mai quando dei generali fanno i colpi di Stato, cioè soprattutto in queste condizioni. Il passato ci insegna che spesso là dove manca una borghesia nazionale degna di questo nome, e sappiamo che in Africa spesso le borghesie sono state più di tipo clanico o etnico a seconda che non nazionali, ecco che allora l'esercito può diventare, è successo per l'Egitto di Nasser, è successo per la Libia di Gheddafi, l'esercito prendeva il posto della borghesia rivoluzionaria nel rovesciare un dominio straniero. Ecco, io adesso non so quanto sono rivoluzionari questi generali. Vedo che molti di loro, a partire da quello che ha preso il potere in Niger, si è formato nelle scuole militari americane. Ho Chi Minh aveva studiato in America, parliamoci chiaro, quindi questo non vorrebbe dire niente. Ho Chi Minh portava come modello, quando propone agli americani l'indipendenza del Vietnam, propone esattamente la dichiarazione di indipendenza americana del 1776, quindi voglio dire, e non era certo, però nella partita africana anche lì si giocano tante, sicuramente c'è la Wagner, ci sono i russi, sicuramente c'è la Cina, sicuramente molti sono interessati alle materie prime che si nascondono, ma l'Italia dal Niger non se n'è andata. Il contingente militare italiano dal Niger non è andato via, è rimasto lì. E guarda caso, subito dopo il Niger, la Meloni comincia a parlarci di un fantomatico piano Mattei per trovare collaborazione con l'Africa. Oddio, cosa voglio dire con questo? Che tutti stanno cercando di farsi le scarpe. Sicuramente gli Stati Uniti più di tanti fronti non li vogliono più aprire, ne hanno già abbastanza. Se potessero probabilmente chiuderebbero anche quell'ucraino. Non a caso, guardate, Zelensky chiede l'autorizzazione di poter fare le elezioni ancora guerra aperta, perché magari con la guerra aperta può imporre ancora una presenza partecipativa nazionale che a guerra finita e dopo aver firmato un armistizio gli toglierebbe sicuramente una parte dei voti. Quindi ci sono in gioco tante cose, ma nessuna di queste va nella direzione della pace che tutti auspicano, no? Il grande disordine sotto il cielo, il grande disordine non può che portare ad un accumulo di guerra. Uno dei titoli della serata, se avete visto, è La guerra non va che in vacanza, che punto è la notte? No? Prendevo lo spunto da questo titolo di un romanzo di Fruttero Lucentini degli anni 70-80, perché a che punto è la notte? Perché nella notte ci siamo. Allora, negli anni 70 c'era un cantante californiano, David Crosby, che in una canzone diceva: l'ora più buia è sempre prima quella dell'alba. Ecco, adesso noi siamo in un'ora buia, ma poiché non è quella prima dell'alba, ne vedremo ancora di più buia. No? Perché, ed è questo che deve farci ragionare sulla assolutamente l'errore gigantesco di schierarsi con una delle parti in lotta. Intanto possiamo dire: certo, la Russia non è più l'Unione Sovietica, e anche sull'Unione Sovietica dipende di che periodo, perché se mi fate dipendere l'Unione Sovietica di Stalin io non sono d'accordo, no? Magari quella precedente, rivoluzionaria, nella guerra civile, ci sono stati periodi diversi, no? Nella storia anche di un singolo paese, ma in Ucraina non c'è certo in corso un esperimento sociale. Quelli che vanno a combattere in Ucraina, per quale libertà? C'è qualche esperimento sociale? Io posso capire chi è andato a combattere per i curdi, posso avere delle perplessità sul fatto che fossero appoggiati gli americani o meno, ma sicuramente nel Rojava un esperimento sociale dal basso della popolazione, di collaborazione anche tra etnie diverse, di superamento della condizione, era in atto. In Ucraina tutto questo non c'è, c'è solamente uno schieramento nazionalistico che combatte oltretutto nemmeno in nome di grossi interessi nazionali, perché alla fine di questa guerra comunque vada l'Ucraina sarà in gran parte distrutta e indebitata fino ai capelli, non solo dalla guerra ma anche dalle necessità di ricostruzione successive su cui già tutti i falchi si preparano a banchettare, ma non solo Occidente. Gli italiani ci dicono che vogliono ricostruire la cattedrale di Kiev, ma probabilmente sotto banco ci sono trattative per ricostruire la marina ucraina e così via. Ma anche dall'altra, anche i cinesi sono interessati a investire nella ricostruzione ucraina. Sappiamo benissimo che la guerra ha due grandi momenti di Guantanamo: quando si arma per la guerra e quando si ricostruisce dopo. Quelli sono i grandi momenti di rilancio economico di queste economie a seguito di una guerra. Quindi tutti questi elementi sono estremamente presenti. Ci hanno parlato della debolezza della Russia. Questa primavera Financial Times diceva che tutto sommato le sanzioni alla Russia non avevano fatto quasi nulla. Aveva incrementato i rapporti con l'India, la Cina, aveva abbassato probabilmente i costi delle materie prime, ma insomma questo disastro che tutti si aspettavano, per adesso quelle sanzioni, ripeto, le ha pagate di più l'Europa, non gli Stati Uniti, ma l'Europa sicuramente. Sono cresciuti dei nuovi paesi antagonisti, un paese come la Polonia sta cercando di giocare un suo ruolo tra Europa occidentale e Europa dell'Est, fuori dalla Russia, no? Un nuovo sorta di stato guida, altra contraddizione che si apre, perché la Polonia tanto è nemica della Russia quanto della Germania storicamente. Diceva prima Francesco che gli anarchici polacchi hanno fatto questa manifestazione, faranno questa manifestazione, dicendo chi ha cominciato la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi e i russi. Beh, dal punto di vista dei polacchi è vero, no? Però è chiaro che gli anarchici vanno a riprendere una bandiera che è tipicamente della nazione polacca, una nazione polacca che nei secoli si è spostata da una parte all'altra, si è rimpicciolita, si è ingrandita e che non ha smesso di avere delle rivendicazioni su gran parte di quella che noi oggi chiamiamo Ucraina. Quando parliamo dell'Ucraina occidentale e nord-occidentale, quella è vecchia Polonia. Io, se fossi Zelensky, non sarei molto contento delle truppe polacche entrassero in Ucraina, perché poi quelle non se ne vanno più da una gran parte del paese. Ipotizzo, la storia ci inventa qualcosa. Tutti hanno, fin dall'inizio della guerra, quello che è stato strano è che fin dall'inizio della guerra Putin, all'inizio vi ricordate, era malato di tumore, doveva morire da un giorno all'altro. Ci facciamo vedere le foto con la coperta sulle gambe, guardate, Putin è debolissimo, sta morendo. Poi ha parlato di... Poi c'è stato l'affare Prigozhin. Sembra che l'affare Prigozhin sia stato chissà che. Prigozhin ha marciato con 2000 soldati su Mosca ed è stata una cosa che non ha funzionato, evidentemente. Ma non è nemmeno una novità. Se andate a studiarvi la guerra dei 30 anni, evidentemente il povero Prigozhin, in pace all'anima sua, non l'aveva fatto, c'è stato un episodio molto simile. C'era stato il più grande condottiero di milizie mercenarie della guerra dei 30 anni, che era Albrecht Wallenstein, un boemo che aveva costruito un'armata privata, sostanzialmente potremmo dire, che da poche migliaia di uomini è arrivata fino a averne 50.000, che ha combattuto per l'imperatore, per gli Asburgo, e che è stato poi fatto fuori dagli Asburgo stessi quando questi hanno temuto che lui potesse diventare un pericolo. È stato un comandante militare eccezionale, Wallenstein. Era riuscito a sconfiggere anche Gustavo Adolfo di Svezia, che è stato il grande condottiero dell'armata svedese in quella guerra, ha sconfitto i francesi, ha sconfitto tutti Wallenstein. Poi a un certo punto ha cominciato a combattere di meno. Hanno sospettato, come probabilmente era vero, che stesse tramando con gli avversari i danni e l'hanno fatto eliminare Wallenstein. Poi Schiller, drammaturgo romantico, ci ha fatto su un dramma in tre atti, il Wallenstein, in cui si viene dipinto come l'uomo coraggioso che si oppone agli imperi. Ma insomma, qualcuno poi in futuro lì in Russia ci difenderà Prigozhin, come abbiamo capito chi era Prigozhin, era uno che insomma ha costruito l'armata probabilmente anche più numerosa di quelle di Wallenstein, pensando a quello che c'è anche in Africa e da altre parti. Però evidentemente è chiaro che l'interesse era privato ad accumulare ricchezze, esattamente come Wallenstein all'epoca accumulava terra, ricchezze, titoli onorifici e nobiliari. Quindi voglio dire, non c'è nemmeno. Però qui sembrava che l'affare Prigozhin dovesse porre fine alla guerra, fine a Putin. Non è così. Tutto sommato, se io fossi in Occidente, fossi in Italia, mi preoccuperei di più di quello che dice un generale Vannacci. Non di quello che dice sulle questioni di genere, eccetera. Ma guarda caso che dopo l'incontro con Vannacci, Crosetto, ministro della Difesa, per la prima volta in Italia, apre a una commissione indipendente di indagine sull'uso delle armi uranio impoverito. Sapete che in Italia questa cosa dei morti militari per l'uso dell'uranio impoverito è sempre stata negata. Adesso il ministro, è l'unico generale che aveva parlato anche davanti alla commissione d'inchiesta, era stato Vannacci, che aveva detto no, ci sono delle responsabilità. Ecco, l'impressione che ho io, che Vannacci, quando dice alcune cose, anche in chiave anti-NATO, non anti-NATO, calma, filo NATO ma anti-statunitense, ma non filo Putin, non rappresenti solo se stesso. C'è uno scontento, evidentemente. Quindi noi assistiamo, poco per volta, alla disgregazione dell'ordine occidentale del mondo. Non sappiamo a quale ordine andiamo incontro. Diciamolo pure, i lupi sono tanti intorno all'agnello, ormai sacrificato del patrimonio delle ricchezze mondiali da spartire, non sappiamo, ma si disgregano anche le alleanze. Se da un lato la NATO, vi ho appena parlato della Germania, le contraddizioni che possono esserci, le contraddizioni che possono esserci anche tra l'Italia e la Francia, all'interno dei BRICS o dello schieramento che si vuole vedere così antioccidentali, certo non si amano tutti, non vanno tutti d'amore d'accordo, è un momento particolare in cui nel tentativo di indebolire il dollaro o altro si può andare d'accordo, poi si vedrà, ma anche gli stati al loro interno, non stiamo a guardare solo all'Ucraina o all'opposizione russa, guardiamo in Italia, non stanno mica tanto bene. Scholz ha paura di una vittoria della destra, Macron ha paura di una vittoria della destra, la destra italiana si divide tra chi è di destra e chi è più di destra o meno di destra, con un'opposizione che tanto i discorsi di destra li ha già fatti tutti e non sa cosa dire. Perché come diceva giustamente Domenico Quirico, è uno dei pochi giornalisti che vi invito a leggere quando scrive sulla Stampa stamattina sulla questione migranti, è inutile continuare a distinguere tra destra e sinistra in un paese come l'Italia rispetto ai migranti quando sono stati i progressisti i primi ad aprire i campi di concentramento in Libia con Minniti. Ultima cosa, è chiaro che tutto questo pesa enormemente sulla formazione di qualsiasi tipo di movimento. L'unica scelta che sembra è siamo a favore di questo, a favore di quell'altro, purtroppo è una scelta disgraziatamente ereditata fin dalla Seconda Guerra Mondiale, no? Che per non essere con Hitler bisogna essere per forza con gli Stati Uniti o con la Russia di Stalin, cosa che ha portato al massacro milioni di proletari senza che quella guerra si concludesse nemmeno come la prima, almeno con un tentativo insurrezionale generale contro chi l'aveva causato. E quindi è chiaro che oggi la nostra posizione, almeno di chi lotta contro la guerra e contro l'imperialismo, è molto difficile. Anche perché se ci sono settori che in questo momento si rivoltano apertamente, sono tutti settori legati o a paesi come quelli africani, o ai migranti o a coloro, anche di terza, quarta generazione, che vivono nelle banlieue parigine, per esempio. È chiaro che c'è uno scontro di classe in atto, ma è uno scontro di classe che non si riconosce come tale. È uno scontro che fa ancora della bandiera dell'appartenenza etnica e razziale, nemmeno religiosa, perché nelle banlieue parigine non funziona più molto il richiamo dell'Islam, come funzionava qualche anno fa. Però questa cosa qui è un grosso ostacolo ad andare a creare un'unità di intenti, un internazionalismo proletario o cose di questo genere. Questo è il quadro drammatico purtroppo con cui dobbiamo fare i conti, ma dobbiamo essere realisti e vedere tutte queste, cioè illuderci che la guerra finisca presto, no. Illuderci che questa guerra sia solo locale, ancor meno. Illuderci che gli avversari del dominio statunitense sul mondo siano i nuovi anticolonialisti d'antan degli anni 70 sarebbe altrettanto sbagliato. E la forza nostra, che dovrebbe riposare su una forza di classe, proletaria, eccetera, attualmente non esiste. Esistiamo nel fare propaganda, nel fare tutte le azioni che diceva prima Francesco e nell'andare avanti nella nostra battaglia per chiarire almeno le idee in un mondo estremamente confuso. Grazie. Allora, pronto, sì. Sono aperti gli interventi, se qualcuno vuole intervenire, se chi è collegato online me lo scrive sulla chat e poi gli diamo la linea. Vieni qua. Volevo solo ricordare il grande disordine europeo, cioè che interessa direttamente noi. Primo, abbiamo il caos balcanico, che in questo momento vede non solo gli scontri più o meno artificiosi tra i vari nazionalismi in cui la Jugoslavia, la ex Jugoslavia è stata divisa dagli europei, dai tedeschi, dal Vaticano, dall'Italia, dai francesi, dai russi, eccetera, ma soprattutto siamo presenti con i soldati italiani, cioè una propaggine della guerra ucraina come guerra tra imperialismi, come guerra tra nazionalismi, ce l'abbiamo dietro casa. E anche, e questo mi fa capire perché la Meloni sia andata a completare le sue vacanze in Albania. La seconda questione è il caos medio orientale, in cui ancora una volta l'Italia è presente con le sue truppe, perché abbiamo schierato il contingente maggiore dell'UNIFIL al confine tra Libano e Israele. E data la situazione che vi è in Israele, di crisi sociale e politica estrema, di crisi di regime, data la situazione che in Israele si sta formando, è possibile che quel rapace imperialismo lanci, come ha fatto nel 2006, un'ulteriore guerra. Quindi uno dei compiti nostri di disfattismo è anche affrontare la presenza militare italiana attiva, operativa, in quei teatri. Non voglio estendere alla questione dell'Iraq, eccetera, perché potremmo anche dirlo. Roberto, non posso farvelo vedere perché ce l'ho sul cellulare, ma prima, mentre Sandro parlava di Prigozhin che sarà glorificato, su Avito, che è l'eBay russa, adesso se volete potete acquistare l'icona di San Prigozhin. Sì, io sono pienamente d'accordo con le analisi e le prese di posizione dell'introduzione fatta da Francesco e la relazione di Sandro. Ecco, penso che però rispetto all'ultima frase detta da Sandro, cioè che non c'è un movimento, ed è vero, ma che bisogna limitarsi alla propaganda, ecco, io penso che dobbiamo andare oltre la propaganda. E questa guerra ha creato praticamente degli spartiacque nel mondo politico, anche a sinistra. Quindi abbiamo due crinali: il crinale dell'imperialismo NATO, in cui ci sono dentro anche gli europei, volenti o nolenti, sono dovuti stare al gioco; l'altro crinale della Russia, con la Cina in posizione ambigua, perché pare che non stia rifornendo di armi più di tanto, magari qualche componente, ma se addirittura è dovuto andarle a chiedere a Kim Jong, a quel personaggio, chiaramente, perché una potenza che è forse più di 100 volte la Corea del Nord non gli sta dando più di tanto. E il terzo crinale è quello del proletariato internazionale, della classe operaia internazionale, e noi dobbiamo lavorare perché diventi un fronte effettivo, che diventi mettere insieme quelle che per ora sono piccole minoranze che, essendo su posizioni rivoluzionarie, si oppongono alla guerra, ma non riescono a trascinarsi dietro delle masse, perché i mass media sono tutti schierati, in Occidente sono tutti schierati da una parte, in Oriente a parte, cioè, e se qualcuno non lo è perché invece è per un'altra soluzione imperialistica, come AFD, come Front National, eccetera. E quel che dicevo, la guerra ha creato una divisione anche all'interno della sinistra, quindi tra i trotskisti abbiamo una maggioranza di filo ucraini, filo NATO, hanno perso la bussola, ammesso che l'abbiano mai avuta, e quindi si trovano ad appoggiare quello che hanno sempre definito l'imperialismo per antonomasia. E il campo stalinista, in buona parte, ma non tutti, poi dico qualcosa, è rimasto con la Russia. Il campo anarchico, anche questo, si è diviso. E allora io penso che questa guerra, proprio perché pone una questione che è fondamentale, non è di tattica, è una questione di da che parte schierarsi. Quindi chi oggi si schiera contro la guerra da un punto di vista della lotta di classe contro entrambi gli schieramenti imperialisti, ecco, al di là, direi, delle famiglie ideologiche a cui appartiene, dobbiamo spingere per creare un fronte che sia comune, e nella misura in cui comunque si riesce a costruire un po' di forza, poi c'è anche un fenomeno moltiplicatore, nel senso che se in diversi paesi ci sono dei movimenti che si muovono in questa direzione, allora questo dà anche più coraggio, fa vedere che è una prospettiva che non è velleitaria, ma che è possibile. Quindi, diceva Francesco, gli appuntamenti prossimi, che sono lo sciopero del 20 ottobre, la manifestazione contro Ghedi, a Ghedi del 21, e che vedo che sta suscitando interesse anche a livello internazionale, e dobbiamo anche lavorare perché questo si traduca poi in collegamenti concreti. Siamo stati invitati a un nome altisonante, congresso per un fronte, del fronte unito internazionale antiimperialista contro la guerra, il fascismo e la distruzione ambientale, in tedesca, in Germania, messo in piedi da un partito che è di tradizione stalinista tedesco, ma che dice chiaramente che ci sono due schieramenti imperialisti e che occorre un fronte a base proletaria, poi anche con collegato con movimenti di liberazione nazionale antiimperialista. Ecco, io penso che non dobbiamo avere, cioè, chiaramente, se ci mettiamo a discutere di Stalin, la mia idea è la stessa di Sandro, e finirebbe male, ecco, anche se stanno adesso rivedendo un pochettino anche la questione. Però nella misura in cui, ad esempio, in questo organismo che hanno costituito c'è un centinaio e più di organizzazioni, di cui poi una parte saranno fittizie, però di 46 paesi, quindi non è una cosa minima, ecco, io penso che dobbiamo lavorare anche in questa direzione, e abbiamo anche altre aree di altre organizzazioni in Europa, eccetera, che c'è stato un altro incontro in Bulgaria, sulle stesse posizioni politiche. Quindi io penso che dobbiamo lavorare in questa direzione, che l'iniziativa di Ghedi del 21 sia estremamente importante in questo senso, e anche, occorre dire, Francesco ha citato anche Coltano e la Sicilia, adesso non conosco bene su quali basi sia stata indetta la manifestazione in Sicilia, ma quella di Coltano, il suo slogan è no all'escalation, cioè non è no alla guerra. Perché non è no alla guerra? Perché ci sono dentro sia i fautori i pro-ucraini, sia i pro-russi, sia i pacifisti che vorrebbero che siano i governi imperialisti a mettersi d'accordo tra di loro e smettere di spararsi, ma che non sono internazionalisti, non sono su posizioni rivoluzionarie. Allora occorre anche che si faccia chiarezza su questo, e che chi è contro la guerra, contro gli imperialismi, venga a Ghedi e non ci sia confusione sul fatto che appunto queste altre manifestazioni cercano di coprire con un generico pacifismo, o comunque con la paura che la guerra arrivi anche a noi, ecco, è questo, no? Purché non usino l'atomica, purché non arrivi anche qui la guerra, ma poi che si scannino pure, ecco, questo atteggiamento, sì. D'altra parte questo è generale, anche in Germania ci sono manifestazioni della Linke in cui ci sono insieme le due posizioni, ci sono i filorussi, ci sono i filonati. In Bulgaria mi dicevano sì, alle manifestazioni contro la guerra si scannavano i fascisti con i nazisti, non so bene quale era con la Russia e qual era con la NATO, no? E fenomeni del genere sono diffusi. Quindi ecco, io penso che dobbiamo lavorare per coinvolgere anche gruppi giovanili in queste iniziative, in modo che si formi un movimento che già ha visto comunque la partecipazione di un numero non insignificante di lavoratori nelle varie scadenze dal 25 febbraio al 1 maggio, eccetera. Dico solo una cosa prima che vada. Quando io dico propaganda dico proprio questo, cioè partecipiamo a tutte le iniziative possibili, però avendo un punto di vista preciso, cioè che è contro la guerra, cioè che non si può essere per l'uno o per l'altro. Anche Elie Schlein dice che è contro la guerra, però con la pace giusta, e per arrivare alla pace portiamo le armi. Cioè, voglio dire, evidentemente propaganda, perché parlo di propaganda? Perché non avendo ancora una forza effettiva in grado di agire nella storia, comunque anche queste manifestazioni sono manifestazioni di propaganda, ovvero per propagandare un'idea, una posizione contro la guerra. Poi questa sera parliamo di questo, se ne parliamo a Ghedi in migliaia ancora meglio, e così via. Però il mio intendere propaganda è quello, ecco, non far nulla, tutto quello che si può, essendo coscienti, ripeto, delle forze effettive che abbiamo a disposizione. Scusate, solo per chiarire. Sì, io vorrei aggiungere solo un elemento a quell'ampia descrizione del disordine in corso, descrizione dalla quale non siamo in grado di ricavare indicazioni precise, mi pare un elemento che vale la pena quantomeno di segnalare. Ne abbiamo parlato quando abbiamo discusso un po' intorno alla preparazione di questa serata. Da oramai diversi mesi in numerosi paesi importanti dell'Occidente la forza lavoro sociale è in movimento sulla questione del salario fondamentalmente. Quindi i grandi scioperi in Germania, in Inghilterra, tutta la vicenda francese intorno alle pensioni, ma che in realtà è andata molto, molto al di là, perché ha visto una confluenza nella strada di pezzi di forza lavoro sindacalizzata con strati consistenti di gioventù povera, che poi è stato quello che ha permesso al movimento di andare avanti così, così a lungo. E infine l'estate degli scioperi americani, che è stata davvero grossa, va studiata nel suo collegamento con, secondo me, con la Floyd Rebellion dell'altro anno, e che ha visto quello che per me è un elemento, se vuoi anche simbolico, se vuoi anche affettivo, ma che insomma può significare qualcosa, ha visto rimettersi in movimento gli operai dell'auto. E quanti anni erano? 50? Più o meno, no? Insomma, comunque, sì, ho capito, sì, ho capito, ma una cosa grossa come, Detroit, ecco. Insomma, sono pezzi evidentemente scollegati da un piano di ripresa dell'antagonismo di classe, sono movimenti, ripeto, per quanto ne sappiamo, per quanto ho capito, per il salario, con certi addentellati interessanti, soprattutto negli Stati Uniti, su altri contenuti molto più ricchi rispetto alle differenze di genere, rispetto all'ambiente, però fondamentalmente sono movimenti di autodifesa della condizione di vita rispetto a un peggioramento che è in atto da tanti tanti anni e che finora, almeno a questi livelli, non aveva trovato una risposta. Ecco, solo un elemento da aggiungere, perché non ne viene fuori un'indicazione, però altrimenti sembra proprio che i proletari non facciano un cazzo. Invece qualcosina, almeno dei tentativi di autodifendere la propria condizione, ultimamente sono riusciti a farli, e con dei risultati significativi. In tutti i casi che ho citato i risultati ci sono stati. Ecco, volevo aggiungere solo questo. Qui dobbiamo autodifendersi da Valentini. Se c'è qualche altro intervento. Ma io volevo aggiungere un elemento di cui in genere si parla poco, cioè non riceve un'adeguata attenzione, quando si parla delle motivazioni profonde che hanno portato a questa guerra in Ucraina. Qualcosa ha detto Sandro quando ha parlato della Via della Seta e delle varie, diciamo, vie di comunicazione che comunque vengono in parte mantenute, a quanto mi pare abbia detto. E appunto volevo parlare dell'importanza della logistica, delle vie di comunicazione che hanno come centro il Mar Nero e le vie, diciamo, i porti, naturalmente, le vie marittime che servono per il commercio e per quella che viene chiamata logistica, cioè tutti i vari trasferimenti per nave, delle materie prime, eccetera. Di questo si è parlato poco in realtà, oppure, diciamo, questa motivazione è stata il più delle volte nascosta sotto l'aspetto di rivendicazioni territoriali sul Donbass, di cui effettivamente oggi è quello che conta, cioè la Russia, dopo il primo attacco che sembrava rivolto a Kiev, quindi a una risoluzione veloce della guerra, poi si è trincerata nelle regioni che erano, diciamo, già etnicamente, diciamo, filorusse, quindi il Donbass, poi è arrivata anche a Mariupol, e congiungendosi poi con la Crimea, quindi fortificando tutta questa zona qua orientale dell'Ucraina, no? E c'è stato un episodio, per esempio, della guerra, successo ai primi di agosto, che ci ha fatto capire l'importanza della logistica. Sapete che c'è stato un accordo sul grano per diciamo cercare di mantenere, l'Ucraina è una delle più grandi produttrici di grano, come anche la Russia del resto, per cercare, quindi con la mediazione della Turchia, per cercare di mantenere il commercio del grano. Si diceva vabbè, perché ci sono i poveri in Africa, vabbè, quelle sono cose che sono più di copertura, no? In realtà il commercio del grano è una cosa importante anche nei paesi occidentali, no? Ora è scaduto questo accordo che era, in qualche modo aveva funzionato, le questioni si sono messe un po' male e nei primi giorni di agosto i russi hanno bombardato con missili i centri dove c'erano i depositi di grano vicino a Odessa, e distruggendoli praticamente, no? Quindi la quantità di grano che non sarebbe un obiettivo militare, a dire la verità, no? Quindi oltretutto questi centri di raccolta del grano sono a poche centinaia o a qualche chilometro dalla Romania, quindi in una situazione piuttosto difficile, complicata, perché potrebbe interessare la NATO, eccetera, anche se non se ne è parlato. In risposta a questa azione russa, l'Ucraina, attraverso droni, con dei droni particolari, ha diciamo attaccato due navi che si trovavano nel porto di Novorossiysk, mi pare che si chiama, cioè un porto che si trova sul Mar Nero ed è collegato con la Crimea attraverso lo stretto, adesso non ricordo il nome, che c'è fra la parte russa e quella della Crimea. E in questa località, in Novorossiysk, c'è un grande hub, come viene chiamato, cioè un deposito di materiale sia di grano e di materie prime russe, petrolio, carbone e fertilizzanti. Quindi la distruzione di queste navi o comunque l'attacco voleva dire attenzione, che noi siamo capaci di attaccare e distruggere anche il vostro hub. Quindi diciamo che è venuta alla luce in queste due azioni di guerra l'importanza di della logistica, cioè dei porti, delle vie di comunicazione, del commercio internazionale. È un commercio internazionale che naturalmente trova un ostacolo nella guerra, certamente, ma diciamo non viene abolito. Questa divisione che si vuole creare fra i BRICS e quegli altri non funziona nel commercio internazionale, cioè il mercato mondiale ancora esiste, e quindi non è che è impossibile, ma è abbastanza difficile segmentarlo. Anche la Cina è molto interessata per via della seta, per la via della seta, quindi non ha molto interesse a che questa guerra, secondo me, a che questa guerra continui all'infinito, insomma, cercherà forse di fare qualcosa per trovare una soluzione. Posso dire una cosa? Sì, posso. Ma queste cose dette da Visconte sono vere, però dobbiamo tener conto di alcune cose. Nella Seconda Guerra Mondiale la Ford americana continuò a fornire di pezzi la Germania nazista, anche a guerra avviata. Questo non impediva che ci fosse la guerra. Quindi stiamo attenti, è vero che non tutto va, non tutti vogliono la guerra, io l'ho sempre detto, fin dall'inizio ho detto guardate, evitiamo i complotti, gli Stati Uniti vogliono, la Russia vuole. I meccanismi vanno in questo modo, poi se arriva la guerra, magari se arriva anche la guerra mondiale, magari se arriva anche la guerra nucleare, ma non si potrà dire che qualcuno ha predeterminato fin dall'inizio tutto quello che deve succedere, perché tutti vorrebbero semplicemente risolvere la guerra e le contraddizioni nel modo più breve e soprattutto più favorevole a loro. Ed è questo che prolunga le guerre, perché se tutti fossero d'accordo che basta interromperle e poi andiamo bene, no? Si interromperebbero. Ma in realtà le interrompiamo quando noi avremo tratto tutto il vantaggio possibile da quella situazione di guerra. Speriamo che finisca in fretta, ovvero speriamo di raggiungere l'obiettivo con il minor numero di danni possibile. Questa è la filosofia che sta dietro. Per esempio, la questione del grano, è vero, i russi, ma intanto i primi che non fanno passare il grano ucraino sono i polacchi, che dovrebbero essere alleati dell'Ucraina. Ma i contadini polacchi non vogliono il grano ucraino in Polonia. Quindi, e quando parliamo di disordine crescente, di disordine che può portare a patatrac, scusate il termine, sempre più grandi, è proprio legato a tutte queste contraddizioni che ormai si sono aperte e si stanno aprendo, non si stanno chiudendo, non c'è qualcuno che sta cercando di ricucire. Certo, gli Stati Uniti forse vorrebbero in questo momento Zelensky accettasse qualche compromesso con la Russia a proposito della Crimea, ma sì, vorrebbero. Dopodiché il meccanismo è partito, la macchina è lanciata e probabilmente, se mi permettete l'esempio, è una macchina con un motore molto moderno ma con ancora i freni a disco e nemmeno gli ABS. E se deve fermarsi ci mette molto più tempo, ammesso che si fermi prima di andarsi a schiantare. Quindi questo noi dobbiamo vederlo. È chiaro, l'ho detto prima, le linee di comunicazione della Via della Seta sono rimaste parzialmente aperte, ma dei traffici si sono ridotti. La Germania è già stata danneggiata da questa cosa qui. E la Germania, l'ho detto all'inizio, ma questa è l'unica cosa, non potrà accettare a lungo questa situazione di sottomissione alle sanzioni, agli Stati Uniti, alle decisioni prese da altri. E questo è un altro fattore di disordine e di possibile scontro militare. Questa è la questione vera, di cui dobbiamo tenere pesantemente conto, perché se no tutto si arrangerebbe un po', tutto sommato. Anche i BRICS, è vero, i BRICS non vogliono tutti fare la guerra, Modi al piede in 14 scarpe, non in due, e probabilmente così tanti altri, l'Arabia Saudita, così la Turchia, ma questo non impedisce che le contraddizioni vadano avanti. Perché smetterebbero di andare avanti le contraddizioni in cui Modi tenesse il piede in una scarpa sola, e così via Erdogan, e così via tutti gli altri, e così via il governo italiano, che deve far buon viso, cattivo, cioè deve star per forza con gli americani, perché in questo momento in Europa non ha la minima credibilità. Chi può tenere in piedi con un minimo di credibilità? Gli Stati Uniti. E non importa se ci portano più, e questo va bene per il discorso che si faceva prima, no? Rispetto all'esercito italiano moschierato di qua e di là. Israele che partita sta giocando? Netanyahu non è più così filo, è vero che Israele dipende dagli americani, ma guardate bene le politiche israeliane. L'Iran resta un nemico, ma l'Arabia Saudita diventa più amica, e Israele non ha fornito più armi all'Ucraina. Cioè le contraddizioni che si sono... Mentre prima avevamo un meccanismo abbastanza liscio, lineare, in cui tutto andava in un certo modo prevedibile, questo è saltato tutto. E continuerà a saltare, non si arresta domani o dopodomani. Questo è il problema di fondo. Cioè quando dico facciamo propaganda, ecco, la prima cosa che dobbiamo propagandare è: non illudetevi che la guerra non venga e finisca in fretta. Non illudetevi. Oltre a non partecipare alla guerra su un fronte o all'altro, ma non dite no, ma tanto adesso passa perché tanto si mettono d'accordo. No. Qualsiasi accordo bilaterale, trilaterale, quadrilaterale, dei BRICS, comunque apre disaccordi con altri. Inevitabilmente. Questo dobbiamo averlo chiaro in testa, se no ci illudiamo. Sarà un periodo lungo di sofferenze, di guerra, in cui il proletariato giocherà la sua partita. Ha fatto bene prima Roberto a ricordarlo. Credo che uno dei problemi grossi dell'America a fare una guerra seria, più ancora che in passato, ne abbiamo già discusso in passato proprio qui, siano le divisioni interne americane. Prima parlavo delle frantumazioni di alleanze negli stati. Se c'è un paese completamente frantumato all'interno, sono gli Stati Uniti. Abbiamo un presidente previsto, Trump, che è sotto inchiesta, un altro che se ne va, che rischia l'impeachment, con i maggiori giornali americani che gli chiedono per favore vattene, il Washington Post ha detto per favore vai a casa, se no ti mandiamo all'RSA. Se no ti mandiamo all'RSA, avete visto cosa ha fatto in Vietnam, ha fatto delle cose che nemmeno... I fratelli De Rese potevano, chi è vecchio come me si ricorda i fratelli De Rese, Walter Chiari eccetera, viene avanti cretino, ecco le stesse cose. Adesso vado a dormire, scusatemi, ma adesso c'è delle scene assolutamente folli. Ma non è soltanto il vecchio presidente, che paradossalmente quel vecchio presidente un po' rincoglionito, diciamolo pure, rappresenta uno stato di salute non proprio così certo di quello che noi continuiamo a vedere, l'imperialismo americano, una volontà, se la gioca, fa. Certo, l'America è l'imperialismo più forte attualmente, su questo non dobbiamo avere dubbi, giocherà la sua partita fino all'ultimo per mantenere la sua posizione di privilegio, ma la sua posizione di privilegio si può mantenere soltanto attraverso uno scontro. C'era un articolo di Caraccio una quindicina di giorni fa sulla stampa, abbastanza interessante, che diceva sì, prima o poi questa cosa tra Stati Uniti e Cina si deve risolvere. O rinunciano gli Stati Uniti, o rinuncia la Cina, o si fanno la guerra. Vi sembra possibile che gli Stati Uniti rinuncino alla loro posizione di privilegio mondiale? A me è difficile. Vi sembra possibile che la Cina rinunci alla sua posizione di potenza emergente? Diciamo che la vedo dura. È possibile una guerra? È voluta questa guerra? No, ma diventa inevitabile. E questa è la questione che ci sfugge, l'inevitabilità dei meccanismi. Il materiale susseguirsi degli eventi, un passo dopo l'altro. E per adesso, dal 24 febbraio 2022, non sto a parlare di quello che è successo negli anni prima, dal 24 febbraio 2022 non c'è stato un passo che andasse fuori da questa direzione, anche se tutti dichiarano il contrario, tutti vogliono la pace. Scusate se mi sono dilungato. C'è qualche altro intervento? Allora, scusa. Provo che non ho ben formulato in mente, però intanto mi presento simpaticamente come un americano contro l'imperialismo, così. E, no, visto che sono molto d'accordo sul fatto che questa guerra sia una preparazione a una controrivoluzione, diciamo così, e volevo aprire un discorso forse sul fatto del nazionalismo e quindi cioè di come viene coinvolto la classe lavorativa in questa guerra. E ovviamente il nazionalismo non è più come quello della guerra dei 30 anni, che è cambiato, e una delle cose che ha, diciamo che l'imperialismo ha acquisito durante la storia è proprio questo carattere del colonialismo, ovvero di rendere l'altro, individuare l'altro, il cosiddetto nemico, eccetera, una popolazione su una base biologico, semibiologico, razziale, etnico, eccetera. Quindi con questo in mente, pensando alle varie forme nuove di nazionalismo che possono emergere adesso, mi domando, anche tenendo in mente tutte le varie trasformazioni tecnologiche che sono avvenute, che stiamo vedendo in questa guerra adesso, cioè secondo me il disfattismo deve prendere in considerazione anche questo elemento qua, cioè come si crea la soggettività di questa classe operaia che viene coinvolto, e quindi che senso può avere, questa è un po' una domanda che vorrei aprire o che non ho risposto ovviamente, ma che senso ha allora parlare di combattenti e non combattenti, cioè fare questa distinzione? Ovviamente noi non siamo qua che si percepisce il puzzo, come dicevi Francesco, eccetera, della guerra, del sangue, eccetera, però un aspetto strutturale della guerra moderna, esattamente la non distinzione fra il combattente e il non combattente. E in questa luce del nazionalismo, che dobbiamo essere, è forse uno dei nemici più forti e più orripilanti, e non ho sentito parlare per niente della democrazia, che è proprio, parlando di una propaganda, una fronte unita sulla propaganda, penso che sia un pericolo da tenere di conto in modo molto forte. Questa cosa qua, no, non ho finito il concetto, lascio Puntolini, però aprendo il discorso sul nazionalismo vorrei anche cercare di infiltrare il discorso sulla democrazia, che, di cui non ho sentito, perché naturalmente l'altro o l'invasore o che sarà o l'imperialista è sempre non democratico. Siamo noi sempre quelli democratici che dovremmo far fronte unita a loro, e questo è una trappola estremamente grave per i internazionalisti. Sì, devo dire, non ho capito bene la parte finale sulla democrazia, no? Cioè, nel senso che è chiaro che il nazionalismo diventa, come sempre, un grosso pericolo. Parlando degli Stati Uniti prima, parlando anche, come diceva Roberto, la classe operaia americana che ha fatto sciopero, immagino però che se un presidente americano un po' più energico di Biden propone alla classe operaia americana il pericolo giallo rappresentato dall'industria cinese, ci voglia molto poco a trascinarla su posizioni nazionaliste. Ricordiamoci che ci vuole poco, poi speriamo di no, però voglio dire, questo meccanismo, pensiamo alla guerra in Vietnam, tutti si opposero in America alla guerra in Vietnam, più volte ho detto che la guerra in Vietnam non è stata vinta solo dai Vietcong, ma anche dalla situazione interna americana, in cui c'erano gli afroamericani, i giovani, gli ex militari, tutti, ma gli unici che non lottavano contro la guerra erano gli operai bianchi delle fabbriche, per esempio. E quindi i grandi sostenitori, non diretti, ma insomma indiretti, della guerra erano gli operai americani. Quando quel furbone di Draghi all'inizio della guerra ha detto a tutti, qui in Italia, che continua ad essere il paese di riferimento, perché insomma posso già dire poco in Italia, figurati, posso dire qualcosa sugli Stati Uniti, ma non gli Stati Uniti, volete la pace o l'aria condizionata? Guardate che non era una frase da prendere sotto gamba, perché potete pensare quello che volete in Mario Draghi, tranne che sia un cretino. Quindi ci sono meccanismi di nazionalismo che sono, appunto, come dicevi tu, non sono più quelli, Italia, tutte le balle della prima guerra mondiale, eccetera. Però ce ne sono di più sottili. Sono meccanismi, soprattutto qui in Occidente, che vedono legata spesso una parte della classe operaia, delle classi medie per quanto impoverite, a degli interessi che poi alla fine potrebbero valer la pena, da un punto di vista chiaramente non comunista, non internazionalista, eccetera, valer la pena di difendere. Cioè, c'è questa, così come dico che spesso la fuga dalla guerra è un fatto egoistico di paura, eccetera, anche il nazionalismo può essere legato poi a fattori egoistici per quanto piccini, eccetera, nel soggetto individuale. La classe poi si compone in maniera diversa, eccetera, eccetera. Quindi questa, che ci sia questo pericolo, sicuramente. Una cosa, tu citavi fronte unico, ecco, tendo a dire una cosa. Io, come dicevo prima, andiamo pure dappertutto e facciamo tutte le cose possibili. La propaganda, e continuo a usare questo termine, perché dobbiamo propagandare, almeno per quanto mi riguarda, continuerò a dire queste cose ovunque con chiunque. non voglia accettare nessun compromesso, essere costretto a cambiare una delle cose che dico per poter fare un fronte unico con lui e con un altro. Perché questo è il vero rischio. Cioè, ricordiamoci una cosa, io non sono un leninista, ma in una cosa Lenin ha insegnato. È stato da solo a comprendere quello che stava succedendo. Nemmeno il resto del partito lo capiva quando lui torna alla stazione di Finlandia nell'aprile del 17. E dice a tutti, voi siete scemi a non aver capito quello che stava avvenendo a Pietrogrado. Non aveva bisogno di fare un fronte unico, aveva capito dove stava andando, però stavano andando, quella parola che è caduta in disuso, le masse, i soldati e gli operai, e anche in quel momento anche i contadini. Quello contava. E noi purtroppo, scusatemi adesso proprio questo devo dirlo, possiamo dire cosa vogliamo e possiamo avere tutte le opinioni, perché non c'è un movimento di massa. Nessuno ci prende a calci in culo perché diciamo le cose sbagliate. Ognuno ha il suo piccolo nucleo di riferimento. E poi dice, mettiamo insieme tutti questi piccoli nuclei e andiamo, no, perché dentro ogni piccolo nucleo poi c'è qualcosa che non funziona, non c'è una realtà che spinge in una direzione precisa. Non ci sono i soldati che scappano dal fronte, non ci sono gli operai che scioperano, non ci sono le donne in piazza che scioperano davvero per il costo della vita che non si mangia più. Lì saltano i fronti unici e lì saltano fuori le idee giuste se ci sono. Questo dobbiamo tenerlo in testa. Io di questo, magari sbagliando, per carità, sto dicendo la mia, Sandro Moiso dice la sua in questo momento, sono convinto di questo. Non dovendo fare con un movimento di massa reale, possiamo tutti avere delle piccole sfumature, ma sì, io vado in Ucraina, noi non ci vado, sì, Putin mi sta antipatico, però Zelensky dice, sapete tutte le sfumature, non sto qui a ripetere, le abbiamo sentite tutti, no? Vanno tutte bene. E purtroppo è così anche in Ucraina, cioè, voglio dire, non vediamo nulla in Ucraina, con le città distrutte, i bombardamenti, in Russia dove, le situazioni non saranno certo quelle ucraine, perché la guerra non ha colpito così a fondo. E teniamo conto di un'altra cosa, diceva prima Visconti della logistica. La logistica è da sempre, e in particolare dalla fine della Prima Guerra Mondiale in avanti, tutta obiettivo militare. Le fabbriche sono obiettivi militari, i ponti sono obiettivi militari, gli ospedali sono obiettivi militari, i depositi di cibo sono obiettivi militari, i porti sono obiettivi militari, gli aeroporti civili sono obiettivi militari e così via. E quello che ho sempre detto, fin dall'inizio, quando dicevo, guardate, dire il crimine di guerra, ma perché crimine di guerra? La guerra è un crimine di per sé, perché comprende tutte queste cose, ma non sono eccezioni. I russi che bombardano i depositi di grano in Ucraina non fanno una cosa eccezionale, fanno la guerra. Gli ucraini che bombardano i porti russi non fanno una cosa, perché poi è bello che ognuno dice da del terrorismo, il bue che dà del cornuto all'asino, tu sei terrorista, tu no, tu mi hai bombardato, no, ma la guerra è quella roba lì, non è qualcos'altro. Ci diamo due spintoni e poi lui mi ha dato un pugno sulla bocca. Allora sì, vabbè, tre gli spintoni e il pugno c'è una differenza. Ma quando cominciano i bombardamenti? Quando sappiamo che non bastano più i proiettili d'artiglieria, nemmeno la Russia? Ci rendiamo conto, cioè, che stiamo proprio dentro una guerra classica in cui non contano i proiettili coreani, non sono molto, chi se ne frega, la teoria della guerra moderna è saturare lo spazio nemico di proiettili, punto. Le armi a ripetizione moderne non servono per tiratori specialisti, servono a saturare lo spazio antistante. Se il mio M16 spara 30 colpi in 2 secondi, ha fatto il suo lavoro. Poi anche se non sapevo, se non ero un tiratore scelto, non importa, ma se qui ho sparato 30 proiettili in 2 secondi, qualcuno beccato. E la guerra funziona così, la guerra industriale, la guerra moderna, la seconda, dalla prima guerra mondiale in avanti, forse la guerra di secessione in avanti, con le mitragliatrici e tutto il resto. Dobbiamo smetterla davvero, vi chiedo davvero di essere, non mi piace, cinici. La guerra è questa cosa qui, e non ci, a me non piace, perché so che quella cosa lì, non perché è giusto o sbagliata su quale principio universale, bianchi, neri, cinesini, siamo tutti fratellini. Non è così. La guerra è un massacro, la guerra è un crimine, una guerra è una strage, la guerra è distruzione, la guerra è violenza sulle donne, sui bambini. Rovina economicamente il proletariato e fisicamente. La guerra è quella cosa lì. Nessuna di queste cose è un'eccezione alla guerra come dovrebbe essere. Vieni qua. Fallujah 2003, Libano, Beirut 2006, teoria di shock and awe, terrore e paura contro la popolazione civile. Cioè gli strateghi militari anche delle medie potenze hanno questo come via d'uscita. Sì, non è, cioè, partono da Dresda o da Coventry e arrivano oggi in qualsiasi villaggio. Sì, una cosa, questo è strettamente connesso agli ultimi due interventi. Si parla spesso e volentieri del terrorismo accusando oppressi o presi di fare terrorismo. Il terrorismo è una delle forme principali della guerra. Il bombardamento è terrorismo allo stato puro. Non è fatto, cioè si usano i missili, quelli ad alta precisione, per abbattere la contraerea, un altro obiettivo militare, lo devi fare al più presto. Per spezzare la resistenza dell'avversario si usa il terrorismo, bombardamenti sulle città, affamamento, azioni di comando, cose, si deve far paura, si deve minare l'adesione al fronte di guerra. E guarda caro, giusto che siamo alle ricorrenze, qualche giorno fa sono volate le frecce tricolori sopra Milano, perché era l'anniversario della costituzione dell'aviazione italiana. Noi italiani, che non siamo brava gente nella nostra storia, abbiamo fatto delle barbarie incredibili, abbiamo fatto anche che siamo stati i primi a inventare il bombardamento sui civili in Libia. D'altra parte il teorico della guerra aerea totale, come oggi viene combattuta, è Due, che era un ufficiale di fanteria passato in aviazione durante la prima guerra mondiale, ed è ancora adesso il teorico di riferimento comunque per studiare la guerra aerea, che è una guerra totale. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se vieni qua, cioè cosa vuoi sapere? No. Sì, scusami, non è no al fronte unico. In mancanza d'altro il fronte è unico, però probabilmente non possiamo, come dire, fare un simulacro del fronte unico, per cui quello può darsi che sì, si faccia il fronte unico, ma se davvero ci fossero situazioni che lo richiedono, si rompe anche il fronte unico, perché se i miei soci del fronte unico non vogliono fare l'unica cosa che serve in quel momento, io devo farla. Mentre invece il fronte unico spesso è servito a creare delle situazioni di compromesso in cui sì, però se facciamo questo e quell'altro non va bene. Chiaramente non stiamo parlando domani andiamo a tirare le pietre alla regione Lombardia o no, non è quella la questione, ma di fronte a un sommovimento sociale più grosso, ho fatto l'esempio della rivoluzione russa, non ho fatto un esempio a caso, e lì può anche essere l'individuo solo che dice no, guardate, la cosa da fare è questa. E tutti gli altri facciano, e lì si vede dove va o dove porta la cosa. Cioè stiamo attenti a non santificare una forma di alleanza che in certi momenti di debolezza può essere utile per diffondere e propagandare delle idee, con quello che invece può diventare contraddittorio nel momento stesso in cui le lotte si sviluppano, e allora l'abbiamo vissuto negli anni 70, cioè voglio dire, mettersi tutti insieme per perseguire certi obiettivi di fabbrica a volte era un danno, era meglio che chi aveva l'idea giusta andasse avanti con la lotta e altri stessero fuori, no? È proprio la pratica politica militante che ci deve portare a questo. Genova è un disastro per me. Genova è un disastro. Genova è un disastro. Se mi parli del Genova Social Forum e della gestione di Genova al G8, è stato un disastro totale. Totale. Cioè, pensare a quello che è successo ancora alla Diaz, io c'ero a Genova, no, penso ci fosse anche tu, no? Io c'ero anch'io a Iwo Jima, come nelle serie televisive, dovevamo da piccoli. Però pensare di aver fatto dormire tutta quella gente alla Diaz la notte in cui erano già in corso i rastrellamenti, in tutta, ma quella è responsabilità del Social Forum, va tutto bene, c'erano le cariche sul lungomare e Bertinotti o chi per lui dal palco diceva: compagni, andate in pace, è finito, è andata tutta bene, guarda che ci sono le cariche, la giunta sta massacrando tutto, e qui quello era il fronte unico, quella roba lì, perché se io mi metto insieme a Bertinotti a fare quelle cose lì va a finire male per me, non per Bertinotti. Dico Bertinotti un nome a caso, spero mi capiate, non per antipatia personale, ma per quello che può aver rappresentato, no? Questa è la questione, che mi leggo le mani, non posso legarmi le mani, posso accettare il fronte unico come momento organizzativo di collaborazione, di propaganda, in un momento di debolezza. Poi, quando c'è il movimento, e a Genova il movimento c'era, era gigantesco, ecco, quella cosa lì, e il giorno dopo ancora incolpare di tutto quello che era successo i Black Bloc. Cioè, la colpa era tutta dei Black Bloc il giorno dopo, perché non si poteva dire qualcuno è stato un po' scemo qui in questo coordinamento. No, la colpa è no, perché noi abbiamo fatto tutto bene. Ancora un po' si diceva che la polizia aveva fatto il suo dovere, ma i Black Bloc avevano provocato. Non andiamo bene. Se puoi farla da qua, perché ti sentono online. La mia è solo una domanda. Allora, mi ha colpito molto quando parlavi degli ucraini, gli uomini, i ragazzi che scappano perché hanno paura della guerra e quindi mettono al primo posto, quindi non è che fanno discorsi rivoluzionari, dici prima non c'era la guerra, io magari avevo uno stipendio da fame, però magari i miei figli non li ammazzavano, io magari non rischiavo di perdere la pelle, forse si stava meglio prima della guerra, no? Ok. E quindi mi ha colpito questa cosa. Allora io volevo chiederti questo: qual è per un movimento rivoluzionario la condizione migliore dove si presentano delle possibilità di poter radicare, ma dal punto di vista quello che dicevi prima, cioè oggi qui chiacchieriamo tutti, parliamo, però nessuno ci punge il culo, insomma. No, no, certo, se ci fossero movimenti di massa dove tu devi rispondere e delle cazzate che magari puoi dire, poi ne rispondi anche, perché è una responsabilità politica se dici qualcosa che va in una certa direzione e non un'altra, quindi è tutto un altro scenario. Quindi oggi ce la chiacchieriamo, giustamente, non si può fare mica altrimenti. Ma per un movimento rivoluzionario, la condizione migliore, cioè è prima della guerra, è durante una guerra, è dentro la guerra, o è dopo una guerra, dove milioni di proletari sono stati dati al massacro, dove nella storia, dal mio, diciamo, quel pochino che ho un po' letto, delle condizioni migliori dal punto di vista rivoluzionario si sono presentate, chissà perché, penso io, magari con una sciocchezza, dopo una guerra. Parlo per esempio dopo la prima guerra mondiale, viene negli anni 20, dopo la seconda guerra mondiale, prendiamo in Italia per esempio il movimento internazionalista, diciamo c'è stato un movimento dove si è presentato con una certa forza, sempre una nicchia, roba di genere, però poi non si è più ripresentato. Allora, noi stiamo... Perché dico questo io? Dico perché noi diciamo, siamo contro la guerra, allora dobbiamo dire che la guerra è meglio che finisca subito. Cioè io mi pongo come un operaio, un proletario, che non ha un discorso di... Allora io dico, ma allora ascolta, tu mi dici, sei contro la guerra, allora è meglio che la guerra la finiamo subito. E chi la finisce la guerra? Mica la finiamo noi, mica la finisce degli operai che sono nazionalisti, che sono nazionalisti. Allora chi la finisce la guerra? La finiscono gli imperialisti. Aspetta, io parlo come, diciamo, ingenuità, che non ho io la visione, ma ok? Però io mi pongo come questo e dice: ma no, è meglio che finisca subito la guerra. A noi darebbe più fiato, io parlo di noi come, diciamo, movimento rivoluzionario, noi in questo momento siamo lì con l'acqua alla gola perché siamo in ritardo da un punto di vista di coscienza tra le masse. Il movimento rivoluzionario è un grandissimo ritardo, giusto? Quindi a noi il fatto che magari si fermi una guerra sotto tutti i punti di vista, che non ci siano morti, che non ci siano stragi, ma che ci dia magari un pochino più di fiato per poter arrivare un pochino più presto, o è meglio che si varende, di cui le contraddizioni del capitalismo con le guerre si mettono così talmente in evidenza, dove non si smaschera il pacifismo, si smaschera il nazionalismo, quindi si va al massacro e poi ce la raccontiamo dopo la guerra, se rimaniamo vivi. Questa è una domanda che io pongo senza grandi, che io non ho soluzioni, non ho, però hai capito quello che ti voglio dire? Scusatemi, prima, durante o dopo? Beh, noi speriamo che ci siano sempre le condizioni, forse prima ancora meglio, ma evidentemente, come hai detto tu, siamo in grande ritardo. Io quando ho scritto quel libro nel 2019, La guerra che viene, sono stato guardato da molti come un matto, tranne qui dai compagni di qui e da pochi altri, per dire: ma la guerra ormai non si fa più. Ma anche gente che faceva parte dell'antagonismo sociale, ma guerra tra gli stati, qualcuno diceva: ormai Stati Uniti e Russia sono d'accordo su tutto, sul gas, sul petrolio. Dico: no, ma guarda, le contraddizioni sono un'altra cosa, no? Quindi siamo arrivati in ritardo perché c'è una convinzione da parte di 30 anni che, a parte le guerre locali di tipo coloniale o polizia e militare, guerre grosse non ce n'erano più. E a questo si è conformato gran parte del pensiero di sinistra, sia radicale che non radicale, Quello che dicevi prima, dopo le guerre, se le guerre finiscono senza rotture, finisce male, come la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è finita molto male, con dei paesi interamente distrutti, col proletariato, scusatemi, sottomesso ovunque, schiantato dalla guerra, mentre invece nella Prima Guerra Mondiale la rottura è arrivata durante la guerra. Nel 17 in Russia, ma è diventato immediatamente un esempio che su molti fronti si voleva seguire. Là dove c'era qualcuno pronto ad acchiappare il cavallo giusto, Lenin, oppure qui in Italia dove abbiamo una cosa colossale come Caporetto, però il Partito Socialista non sa dire né a né ba, e anzi chiede, si era mantenuto neutrale proprio dopo Caporetto, partecipa alle azioni di governo per il soccorso alla popolazione civile. Gli unici che si opporranno anche al soccorso alla popolazione saranno i giovani socialisti, Bordiga, Terracini, che daranno poi vita al Partito Comunista e dicono: no, col governo imperialista, nazionalista, guerrafondaio non si partecipa, non si collabora per nessun motivo. Però c'era stata una rottura. E mi dispiace dirlo, a cosa avviate la rottura più importante è all'interno dell'esercito. Dicevi prima la diserzione, no? Qui in Italia da subito sono arrivati degli ucraini che non disertavano dall'esercito ma venivano via. Addirittura ho andato a Genova, io pochi giorni dopo l'inizio della guerra, a fare una prima discussione come questa, e mi dicevano i portuali che erano arrivati un sacco di giovanissimi ucraini travestiti da donna, con le faccine carine, rasate, eccetera, che facevano finta di essere donne per poter arrivare, in Italia. Capito? E fuggire alla chiamata alle armi. E Hemingway, che è stato l'unico nel suo libro Addio alle armi, dà una grande testimonianza di ciò che è stato Caporetto, dice una frase che secondo me vale per sempre: il disertore è colui che ha il coraggio di firmare una pace separata col nemico. Non è un vigliacco, non è un traditore, è quello che si è rotto le scatole, non ne può più, vuole la pace, vuole andarsene via, che poi sia internazionalista o semplicemente abbia paura di morire, chi se ne frega. E tutte le guerre sono finite su cose di questo genere. La guerra in Vietnam è diventata un casino per gli americani quando i soldati hanno cominciato a tirare le bombe a mano dentro le tende degli ufficiali, quando i soldati tornavano a casa e manifestavano con gli studenti. In Italia la resistenza non nasce dall'antifascismo storico, erano quattro gatti gli antifascisti, nasce quando si scioglie l'esercito l'8 settembre. La maggioranza delle bande partigiane viene formata da giovani che prima erano nell'esercito e sapevano usare le armi, perché si aspettavano di fare l'antifascismo nelle valli alpine, piemontesi, lombarde, eccetera, con gli intellettuali antifascisti che andavano su col libro a spiegare chi era Marx. Te saluti. Quindi, come dire qual è il momento migliore? Il momento migliore è quando avviene, e soprattutto però se noi sappiamo che qualcosa può succedere in quella direzione. Se per 30 anni la maggioranza della sinistra italiana, non qui presenti, li conosco da te, però voglio dire, ha dormito sugli allori dicendo ma no, tanto la guerra tocca agli altri, figurati se tocca ancora a noi. È chiaro, quando poi scoppia si fa di tutto pur di non averla. E invece bisognerebbe anche dire che sì, iniziata una guerra, piuttosto che la pace ad ogni costo, è meglio che la guerra arrivi fino alle sue efferate conseguenze, possibilmente con un rovesciamento durante questo. Perché la pace ad ogni costo può portare alle condizioni peggiori di prima, per il proletariato, per tutti quanti. Ma poi ci serve da aggiungere su questo che non solo bisogna vedere quando avviene, ma bisogna cogliere l'attimo fuggente, come si dice adesso. Bisogna avere la capacità di interpretare. E l'esempio fatto prima da Sandro di Lenin, che arriva da solo, ha una valenza, perché prima quel gruppo di militanti con pochi altri scrive una serie di documenti sulla guerra, tesi, controtesi, ci spiega che l'imperialismo fa questo, la guerra questa cosa, tutta una serie di cose teoriche. La rottura nell'esercito si produce, si crea il casino, e di tutte queste parole d'ordine qual è che tira fuori? Il partito bolscevico e Lenin lì. Pace subito, basta. Pace subito. Noi siamo gli unici che fanno la pace subito, bloccando la guerra, ritirando i soldati e niente altro. È la capacità di tradurre in politica concreta quella che è l'indicazione teorica e tutto l'impianto. Poi sul, volevo, non come conclusioni, ma degli spunti che sono saltati fuori. Prima Robertino tirava fuori la questione dei lavoratori che si muovono. Molte volte in queste discussioni mi ha dato per scontato una cosa. Parliamo, tutto questo ha origine dalla crisi generale dell'imperialismo, ho detto così, è una bella cosa da libro. La sua concretezza è che noi non ci siamo riusciti negli anni precedenti ad arrivare a rovesciare tutto, ma il capitalismo non è che ha vinto. Il capitalismo, se potesse non fare le guerre, pagarci di più e andare avanti tranquillo, lo farebbe, ma non può. Il capitalismo è quello della precarietà, il capitalismo è quello della sanità sempre più distrutta, il capitalismo è quello che non ci dà lavoro, che non ci dà casa, che è una crisi generale senza prospettiva. Il ciclo di accumulazione che si era aperto con il secondo dopoguerra è irrimediabilmente chiuso, va avanti, ha un'agonia, ha qualche sussulto, ma non c'è una ripresa stabile, se non attraverso un conflitto globale che distrugga capitale totale, che è capitale fisso, riconsenta di ricreare le condizioni economiche dell'accumulazione capitalista. Questa distruzione non è un atto che si fa a tavolino, si fa se il sistema di rapporti di equilibrio tra gli stati salta e viene meno, come sta avvenendo oggi. È la dinamica che si è aperta, vedremo. Il disastro di questa realtà della crisi generale, è l'ultima cosa che dico, non ne parliamo mai, ma andrebbe tenuta presente perché è epocale in questa fase, è la questione dell'immigrazione. Questi, ma perché vogliono venire via? Vogliono venire via perché lì non si vive più, perché non siamo neanche più in una fase che il capitalismo si sviluppa un po' qua, un po' in Cina, un po' in Uganda. In Uganda, in Cina, in questi posti, non si sviluppa più come una volta. È in un ristrettissimo strato imperialista, finanziario, è un grande Stato, non c'è possibilità di sviluppo, è uno sviluppo bloccato, non ha possibilità di ripresa. È quello che sta avvenendo. Noi ne vediamo nell'epocalità che viviamo qua e nella sua guerra che viene fatta agli immigrati da parte dei governi, una piccola parte, perché se noi calcoliamo i numeri che sono qua, non sono quelli che esistono in Africa. Se uno ha la pazienza di andarsi a vedere gli studi dell'ONU e dell'OMS, scoprirà che il grande numero degli immigrati a milioni è in Uganda, è in Sudan, dentro enormi campi profughi, quelli che non hanno i soldi per il viaggio, per pagarlo fino qua, sono tutti lì. E lì c'è un disastro di cui noi non abbiamo minima cognizione fino in fondo. Va benissimo, io chiudevo, non c'è problema. No, volevo solo dire una cosa proprio piccolissima, ribadire questo fatto che uno poi magari dà per scontato, che è in atto un meccanismo di arruolamento in questo paese, in questo momento. Cioè la preparazione alla guerra, questa cosa che diceva Sandro prima, non siamo all'ultima ora, non sapremo cosa avviene l'ora dopo, non è solo nostro. Cioè quello che sta succedendo nella promozione delle forze militari, nella promozione delle soluzioni repressive sul territorio, nei confronti dei piccoli, dei medi, dei grandi, quello che succede nelle scuole, i ragazzi vanno a lavorare nelle basi NATO adesso e le basi NATO vanno nelle scuole, cioè è saltato tutti quei meccanismi di la didattica, la comprensione, le cose così, cioè è in atto la preparazione di un modello militare. Anche questa roba dei Vannacci ha tirato fuori, da anche se diciamo il testo è una cagata, diciamo, però tira fuori la questione in modo provocatorio e forte e butta lì la questione del generale che parla. No, è pericolosissimo, non è la guerra, ma è la preparazione alla guerra. Io credo, non so chi parlava prima della Sicilia, che anche il ponte sia una preparazione alla guerra, perché il ponte sullo Stretto, se lo faranno, e forse questa volta lo faranno, può servire per far passare dei treni che c'hanno sopra delle cose. Non è una roba che serve per far passare persone oppure per... questo possiamo, però questa questione vale secondo me, quindi diciamo si può anche intervenire piccoli in delle questioni specifiche che ci sono vicinissime, ecco, su questa roba qua una voce su questo si può dare. No, è una cosa fondamentale, la militarizzazione nelle scuole è enorme e il 4 novembre è diventata festa delle forze armate su decisione del governo e fa parte di questo piano di militarizzazione sociale. La guerra è data come normale, tra virgolette, la militarizzazione, l'esercito, è una cosa che deve esistere, è normale, è giusto, non si discute. Si discute se è giusto che un generale possa andare a bombardare. Usando la parola gay lo può fare, se dice ricchione, scusate, non lo può fare, perché questo qui non va bene, è il caso del generale Vannacci. Ma questa cosa spaventosa è che è giusto che vada a bombardare, che vada in Afghanistan, Vannacci ha avuto comandi in Afghanistan, tra le altre cose, e se lo fa politicamente corretto va benissimo, allora centrodestra e centrosinistra, d'accordo, si spiega nelle scuole, si porta tutti quanti a raccontare e si ricostruisce un'identità nazionale anche in questo modo, attorno alle forze armate che sono l'elemento unitario. È una situazione che, a differenza del passato, dentro l'esercito di leva eravamo, il proletariato era dentro. Adesso noi abbiamo un esercito professionale, a differenza di quello di quegli anni, altamente professionale e altamente armato, che è uno strumento di repressione, di reazione mostruosa, se occorre. Aggiungo una cosa, sì. Ma veramente sono un rompiballe, che non è solo l'esercito, dall'abolizione del servizio di leva, obbligatorio, sospensione, si è passata a una forte militarizzazione di tutte le forze di polizia, dalla polizia penitenziaria alla polizia locale, eccetera. Cioè nei concorsi sono privilegiati quelli che hanno fatto, vengono dalla carriera militare. Quindi l'educazione delle forze di polizia civili o militari nel territorio è sostanzialmente l'educazione militare. È importante quello che ha detto lui, sospensione, perché in Europa, sia in Francia che in Germania, si sta ridiscutendo di introduzione della leva, e anche in Italia, sempre una maniera disordinata, stupida di Salvini. Volevo aggiungere ancora un'osservazione, perché mi è successo, se Pietro Basso in ascolto lo sa, che mi sia stato detto la mia fiducia nella possibilità di rottura degli eserciti. Sì, però adesso abbiamo degli eserciti professionali, ecco, ma gli eserciti professionali servono per le campagne militari che abbiamo visto fino adesso. L'esercito professionale di piccoli corpi scelti in una guerra di questa portata non basta più, prima cosa. Seconda cosa, dicevo prima, Francesco stasera ho sfogliato dei libri, nel 1700-1600, quando gli eserciti erano in gran parte fatti da milizie mercenarie, la diserzione era altissima lo stesso. Nella famosa guerra dei 30 anni, citata prima, quella del 1618-1648, la diserzione media era del 7-10% per esercito, annuale. Quindi parliamo di cifre grosse. Quindi voglio dire, tutto dipende da mille fattori. Cioè non è che il capitale adesso ha fatto esercito professionale, allora ricordiamoci che nell'antica Roma i pretoriani sono quelli che hanno fatto fuori comodo, e per un anno c'è stato l'anno dei quattro imperatori in cui un pretoriano dietro l'altro si ammazzava per andare al potere. Quindi in realtà noi come antagonisti, come imperialisti eccetera, non abbiamo nessuna garanzia, ma guardate che anche il capitale non ha nessuna garanzia garantita, firmata e sicura. Questa è la questione su cui anche, perché a volte ci pensiamo troppo deboli e diamo troppa forza al nostro avversario. E adesso noi siamo molto deboli, con questo non voglio dire, però è il pensare che il nostro avversario abbia già combinato tutto, sappia già tutto, faccia già tutto, si è messo già d'accordo con questo o quell'altro, quell'ideale lì che dicevo prima, tanto Stati Uniti e Russia ormai vanno d'accordo sul gas, ma dove? È lì che salta tutta la programmazione, le cose che a volte ci immaginiamo fin oltre, perché poi vediamo un sacco di film, no, dove ci sono i complotti, come sono tutte balle. Cioè sì, i complotti ci sono, ognuno gioca la sua partita, per carità, ma che poi funzioni esattamente come così è stata pensata all'inizio, no, questo assolutamente no, perché i fattori sono troppi che intervengono. Fermo restando che l'esercito professionale italiano è vecchio. È vecchio anche te. Cioè, è anziano. Voi non sentite, stanno dicendo che l'esercito professionale italiano è vecchio, è fatto da anziani e non ci sono nuove forze che entrano in numero sufficiente a gestire l'operazione. Festa proprio di nuovo. Sì. Fantastico. Veniamo tutti dal governo, sì. Che bello. Non vedo l'ora. 4 novembre è festa. Basta abolire il primo maggio. Certo. Bello, il primo maggio come se fosse abolito, una volta diventata la festa. Va bene, se non c'è altro chiudiamo qua, che chiudo anche la connessione. Grazie a tutti per la pazienza. Grazie.